Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Le borse provano a reagire. Milano guadagna circa il 5% e a Francoforte riprende fiato e ampiamente Deutsche Bank. Questa sera in Consiglio dei Ministri i provvedimenti sugli istituti di credito. Sui migranti, l'Europa contro l'Italia in merito a norme e rimpatri. E sui ricollocamenti all'interno dell'Unione scrive una lettera a tutti i paesi. Ci vuole un cambio di marcia. Una villa e un intero sito archeologico sequestrati ad un alto prelato in manette questa mattina. Monsignor Benvenuti avrebbe truffato 300 anziani per 30 milioni di euro con uno schema Ponzi. Stava per partire per le Canarie. Unioni civili finalmente in aula al Senato. Si parte questo pomeriggio con la richiesta di una parte del centrodestra di far tornare il testo in commissione. E sempre nel centrodestra si apre però lo scontro sulle candidature alle amministrative. Salvini irritato a quanto pare dall'ipotesi di Rita Dalla Chiesa per Roma e salta il vertice. Sanremo, un boom di ascolti, come vi abbiamo anche raccontato in Melo, con metà dei telespettatori italiani davanti al festival per la prima parte in 12 milioni e mezzo e stasera le altre 10 canzoni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666 tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque torniamo anche oggi a parlare di mercati, perché i segnali che arrivano dalla borsa sono positivi e anzi ampiamente positivi direi dopo questi lunedì e martedì di ribassi. Deborah Rosciani, buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Beh, c'è da dire che gli operatori sono davvero indecifrabili nel loro comportamento, perché le banche di Piazza Affari che oggi rimbalzano del 12-13% sono le stesse identiche di ieri, non è che abbiano ribaltato la loro condizione nel giro di una notte, sono le stesse che nelle ultime giornate sono state letteralmente prese a bastonate. Però era ora di prendersi anche delle ricoperture, perché erano arrivate a delle quotazioni veramente stracciate, per cui oggi il mercato riprende fiato tutto complessivamente, ma particolarmente Milano, che proprio a causa della larga esposizione del principale listino sul comparto finanziario era stata la più penalizzata nelle ultime sedute in questi 40 giorni di passione dall'inizio dell'anno per i mercati finanziari tutti. Più 5% per il FTSE MIB, più 2,17 Parigi, Francoforte più 2,28 Londra, in rialzo di un punto, quindi come vedete i rimbalzi delle altre piazze europee ci sono ma non sono particolarmente entusiasmanti. Abbiamo rialzi a due cifre per tutti i big del comparto bancario milanese, in particolar modo in questo momento crescono di oltre 12 punti le due banche che dovrebbero andare in matrimonio a breve, il Banco Popolare e la Popolare di Milano, bene Intesa San Paolo più 11,9, Unicredit dopo i conti presentati ieri aveva subito una sberla di 8 punti in borsa, oggi recupera quasi 11 punti percentuali, poi bene Unipol, Banca Mediolanum, Ubibanca, Monte dei Paschi più 6,5 punti, Generali pure da tempo sotto i riflettori per il cambio della guardia ai vertici, il titolo oggi recupera 6 punti percentuali. Gli occhi degli operatori sono tutti puntati sull'intervento del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, in audizione davanti alla Camera e al Senato oggi e domani. Potrebbe dire qualcosa di più su cosa intende fare con i tassi di interesse negli Stati Uniti da qui ai prossimi mesi. Gli operatori sono convinti che a marzo non adotterà un altro rialzo dei tassi come era ipotizzato a dicembre quando ha fatto la prima manovra dopo molti anni, per cui stasera avremo le idee più chiare su questo. Come dicevi tu Simone, in Germania rimbalza vigorosamente anche Deutsche Bank, più 16% faceva poco fa, per cui anche questo è un altro buon segnale appunto sul ritorno di un pochino di ottimismo fra gli operatori. Lo spread fra BTP e Bund è a 137 punti base, abbiamo avuto un'altra asta di titoli di Stato questa mattina, BOT ancora con un rendimento negativo, 6 miliardi e mezzo di euro piazzati. Per ora è tutto. E grazie Deborah Rosciani per questo aggiornamento e più avanti tra poco torneremo a parlare in particolare proprio di banche, tanto di Deutsche Bank quanto appunto dei decreti che dovrebbero arrivare questa sera in Consiglio dei Ministri per capire esattamente un po' che cosa ci si aspetta che contengano. Nel frattempo di questa mattina la notizia che la Commissione Europea ha dato il via libera allo schema di garanzia statale scelto dalle nostre autorità e frutto della l'accordo del quale lungamente vi abbiamo parlato nelle settimane scorse tra il commissario Vestager alla concorrenza e il ministro Padoan sullo smaltimento delle sofferenze, ossia i crediti inesigibili delle banche. Quindi arriva anche l'atto formale dopo l'accordo appunto tra il commissario Vestager e il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. E come si diceva nei giorni scorsi, oltre ad una serie di questioni tecniche, oltre al fatto che molti fondi sovrani dei paesi produttori di petrolio starebbero alleggerendo le loro posizioni in Europa, quindi di fatto vendendo azioni per i problemi di bilancio pubblico che comporta il prezzo del greggio così basso, c'è anche una questione più profonda che riguarda l'andamento dell'economia. Su tutti questi aspetti, tra l'altro, trovate molti dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola, mentre invece vi parliamo di dati che sono arrivati questa mattina, a partire da quelli italiani sulla produzione industriale, ci sono anche quelli francesi e ieri quelli tedeschi. Una conferma alla ripresa economica, così il Ministero dell'Economia commenta il più 1% segnato dalla produzione industriale italiana nel 2015. Un anno importante, visto che mostra il primo incremento dal 2011, ma che alla fine rallenta, come è successo anche in Francia e Germania. A dicembre le aziende tricolori hanno registrato un calo dei volumi dello 0,7% mensile, diminuzione che diventa più ampia considerando l'intero anno, da dicembre a dicembre, e gli effetti del calendario. Negativa anche nel quarto trimestre. Per i cugini francesi la flessione di fine 2015 è stata più ampia, così come per i tedeschi. Entrambi non si aspettavano un calo di oltre l'1% a dicembre. L'Italia è stata, per così dire, aiutata dal settore auto, più 14,3% a dicembre e più 42,5% nel 2015, una crescita record che però lascia l'indice sotto i livelli pre-crisi del 2007. Bene anche prodotti petroliferi e farmaceutici, giù metallurgia, attività estrattiva, abbigliamento e tessile. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alle questioni che riguardano i profughi e i migranti, perché oggi l'Unione Europea ha pubblicato le sue raccomandazioni, rese note le sue raccomandazioni agli stati sui migranti. Un punto con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, dagli hotspot ai ricollocamenti al piano d'azione con la Turchia, la Commissione europea mette nero su bianco raccomandazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di far pressione sugli stati perché accelerino sull'attuazione delle misure per gestire la crisi dei migranti. Il commissario all'immigrazione Avramopoulos poco fa ha lanciato un grido d'allarme: abbiamo perso troppo tempo, non è accettabile, dobbiamo più che mai rafforzare il nostro impegno con azioni forti, bacchettata in particolare a Italia e Grecia. Questi paesi hanno compiuto progressi, ha ammesso il commissario, ma devono ancora assicurare che tutti gli hotspot siano attivi. Per l'Italia ritardi su Augusta e Porto Empedocle, e mentre sui ricollocamenti il nostro paese è ancora molto indietro rispetto all'obiettivo dei 39.600 rifugiati in due anni, ma in tutta Europa il numero dei ricollocamenti è ancora basso. Per questo il commissario ha spedito oggi una lettera a tutti i ministri dell'interno europei chiedendo di cambiare marcia, rapporti che serviranno da base per il vertice europeo della prossima settimana. E arriva oggi anche un ultimatum alla Grecia di 3 mesi per mettere in sicurezza la sua frontiera con la Turchia ed evitare la fuga di migranti verso l'Europa centrale e del nord. Intanto si discute su un possibile coinvolgimento della NATO nella gestione dei migranti, o meglio nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione, dopo la richiesta avanzata da Turchia e Germania, una richiesta in realtà insolita visto che la NATO resta un'organizzazione militare. Verrà però valutata con attenzione, ha promesso il segretario generale Stoltenberg, proprio in queste ore, visto che oggi e domani è in corso a Bruxelles un vertice dei ministri della difesa. A te, Simone. Grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. La Guardia di Finanza di Bolzano, e veniamo alla cronaca italiana, ha arrestato Monsignor Patrizio Benvenuti, un alto prelato, per una truffa a quanto pare con il cosiddetto schema Ponzi. Sentiamo. Avrebbe commesso una truffa da 30 milioni di euro. Con questa accusa la Guardia di Finanza di Bolzano ha arrestato Monsignor Patrizio Benvenuti, vittime dell'alto prelato, 64enne, di origini argentine, quasi 300 persone, prevalentemente residenti all'estero, per lo più in età avanzata. Versavano i propri soldi al sacerdote, convinti che fossero destinati alla sua fondazione umanitaria. Il denaro invece finiva in un articolato meccanismo di riciclaggio tra persone, società estere ed italiane. Benvenuti è stato arrestato a Genova mentre stava partendo per le Isole Canarie. La Guardia di Finanza ha anche sequestrato in via preventiva una lussuosa villa del 400 a Piombino e un grande sito archeologico a Selinunte. Dell'associazione facevano parte altre 9 persone. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare più avanti. Andremo a chiacchierare con un cronista della zona di Bolzano, che si sta occupando di tutta questa vicenda per avere qualche dettaglio in più. Adesso noi veniamo alla politica, che si articola su due fronti oggi. Da una parte le unioni civili, finalmente arrivano in aula e arriveranno i primi voti, e dall'altra parte il tema delle amministrative. Iniziamo dalle unioni civili. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, sarebbero 125 voti segreti sulle unioni civili avanzati da Lega, Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Di questi bisognerà vedere quanti ne accetterà il Presidente del Senato Pietro Grasso. Ancora da risolvere le impasse sugli emendamenti della Lega, nessun accordo con il PD per il ritiro del 90% delle 5.000 proposte di modifica al disegno di legge Cirinnà. Il patto era per il ritiro degli emendamenti, dice Gianmarco Centinaio del Carroccio, ma non sui contenuti, che però secondo il PD potrebbero far cadere l'intero provvedimento con i voti segreti. PD, Lega e Forza Italia torneranno ad incontrarsi nel pomeriggio. In questo clima non certo sereno iniziano oggi in Senato le votazioni in aula, con la richiesta del primo voto segreto sul rinvio del testo in commissione, firmato da una settantina di senatori del centrodestra. Il premier Matteo Renzi spinge invece sull'approvazione del disegno di legge, ma sulle adozioni lascia la parola al Parlamento, tanto che il gruppo PD darà libertà di voto proprio sui tre emendamenti di questo punto. Giusta invece la battaglia all'utero in affitto, secondo il Premier. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando però avverte: la stepchild è fondamentale, senza i magistrati saranno costretti a colmare le lacune. Qual è il pericolo, Simone? Quello di creare una seconda legge 40, quella sull'inseminazione artificiale, poi destrutturata dalle sentenze della magistratura. A te. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. L'altro fronte, si diceva, è quello delle candidature per le amministrative, un fronte che coinvolge soprattutto il centrodestra in questo momento. Sentiamo. Rischia di naufragare prima ancora del varo la candidatura di Rita Dalla Chiesa per la corsa al Campidoglio. A tirare fuori a sorpresa il nome della conduttrice televisiva come possibile candidato del centrodestra nella capitale è stata ieri sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Il suo annuncio è stato però accolto con gelo dagli alleati, soprattutto dal segretario della Lega Salvini, che, irritato, ha fatto sapere che diserterà il vertice a tre con Silvio Berlusconi in programma stasera a Palazzo Grazioli. Il nome di Dalla Chiesa avrebbe colto di sorpresa anche lo stesso Cavaliere, che per Roma non avrebbe ancora rinunciato del tutto all'idea di candidare l'imprenditore Alfio Marchini o l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. L'impasse romana rischia ora di avere conseguenze anche su Milano, perché nel vertice di stasera all'ordine del giorno c'era anche la candidatura dell'ex direttore generale di Confindustria Stefano Parisi, che il centrodestra sarebbe intenzionato a contrapporre al vincitore delle primarie del centro-sinistra Giuseppe Sala. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio con Rita Dalla Chiesa parleremo tra poco. Intanto vi do conto di una notizia appena battuta dalle agenzie, una dichiarazione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e che riguarda la vicenda della diga di Mosul in Iraq, che il cui consolidamento è stato affidato all'azienda italiana Trevi. Da Renzi è arrivato pochi istanti fa, durante una conferenza stampa con il primo ministro iracheno Haider al-Abadi, la conferma che ci saranno dei nostri soldati che andranno a collaborare per la sicurezza dell'area in chiave difensiva, appunto insieme alle forze di sicurezza irachene. Ci spostiamo a Taranto, perché questa mattina c'è stato lo sciopero dei lavoratori dell'Ilva, nel giorno nel quale scade il termine per presentare le offerte per l'azienda. Un corteo in città ha seguito e sta seguendo tutto Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore, appunto da Taranto. Domenico, buongiorno. Buongiorno, si è conclusa da poco la manifestazione degli operai sotto il palazzo della prefettura. In precedenza c'era stato un corteo che aveva attraversato parte della città. Insieme ai lavoratori dell'Ilva e delle imprese appaltatrici che scioperano oggi sia nel primo che nel secondo turno, c'erano anche i sindaci di molti comuni della provincia, Confindustria Taranto, che ha aderito a questa manifestazione, e il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano. Lo sciopero di oggi è finalizzato per i sindacati a chiedere certezza e chiarezza sul futuro del Villa, in vista della presentazione delle manifestazioni di interesse. Il governatore della regione Puglia, Emiliano, ha dichiarato: chiediamo al governo di dirci a che punto è la situazione dell'Ilva, ma soprattutto quali sono le prospettive di questa azienda. L'Ilva è una realtà troppo grande, troppo importante, e ha causato molti lutti e molti danni ambientali, e quindi le istituzioni della Puglia, la regione non possono essere escluse da questo processo di informazione e di condivisione, ha detto Emiliano. È tutto, a voi studio. Grazie a Domenico Palmiotti per questo aggiornamento. Prima di andare al traffico, facciamo un punto su Sanremo. Ieri praticamente metà degli italiani, o almeno metà dei telespettatori, è stato davanti a Rai 1 per vedere il festival. Facciamo un punto anche sugli ascolti con la nostra Marta Cagnola, inviata a Sanremo. Marta, buongiorno. Ciao Simone, diamo i numeri come sempre quando si tratta di Sanremo. Una media di 11.135.000 spettatori, 49,48% di share. La prima parte ha fatto 12.515.000, 49,2% di share. La seconda 5.906.000 con il 52,3% di share. L'anno scorso la media era stata 49,34, quindi un pochino sotto, anche se gli spettatori erano stati un pochino di più. Carlo Conti, sono felice, contentissimo, era quasi una Mission Impossible, sono contento. Ovviamente tanta tensione sul fatto che i cantanti abbiano esibito nastri arcobaleno, quindi le domande della conferenza stampa, che come sapete c'è sempre a quest'ora e che è ancora in corso, vertevano spesso su questo. Carlo Conti ha detto che è stata un'iniziativa dei singoli che non abbiamo sottolineato né spiegato per non fare differenze tra i cantanti e non influenzare le giurie e i telespettatori. Ti posso dare già l'ordine di uscita dei big stasera? Dolce Nera, Clementino, Patti Pravo, Valerio Scanu, Francesca Michielin, Alessio Bernabei, Elio Le Storie Tese, Neffa, Annalisa, Zero Assoluto. Gli ospiti stasera: Eros Ramazzotti, Ellie Goulding, Nino Frassica, Ezio Bosso, Nicole Kidman e lo chef Antonino Cannavacciuolo. Allora, grazie intanto alla nostra Marta Cagnola che continuerà a raccontarci tutto, e come ogni giorno abbiamo il diario di Enrico Ruggeri. Sentiamo. Il Sanremo di Ruggeri. E il festival comincia a fare sul serio. È partita la manifestazione, un Conti in grande spolvero, quindi pare che il festival sia partito a gonfie vele e aspettano tutti con ansia gli ascolti. Arrivano anche dei primi parzialissimi verdetti con alcuni nomi grossi che sono per ora in posizioni di rincalzo, per esempio Noemi e i Dear Jack, e anche per ora sempre i Blue Vertigo. Nel frattempo il vostro cronista per adesso invece occupa posizioni di classifica che apparrebbero più confortanti in vista dell'obiettivo della finale. Nel frattempo il festival si muove, come ho già detto, in maniera piuttosto efficace. Le giornate sono molto lunghe perché va anche raccontato a tutti il fatto che i cantanti si presentano sul palco dopo aver parlato per 10-12 ore, dopo aver fatto interviste, dopo essere stati al caldo, al freddo, al freddo, al caldo, quindi forse qualche eventuale debacle può essere anche giustificabile. La giornata a Sanremo finisce sempre molto tardi e tutti vanno a dormire quando ormai albeggia. Per ora da Sanremo è tutto, ci sentiamo domani. Ci sentiamo domani con il diario di Enrico Ruggeri, ma invece lo ritroviamo come sempre alle 15.30 con il Falco e il Gabbiano, e come già vi riferiva Gianluca Nicoletti, una settimana di puntate speciali dedicate proprio al Sanremo di ieri e di oggi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi parleremo con Rita Dalla Chiesa, che è stata candidata da Giorgia Meloni al Campidoglio, in sostanza, come è possibile candidata del centrodestra, e poi torneremo ad occuparci di banche e di mercati con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: le borse provano a reagire, Milano guadagna in questo momento il 4,9% sul FTSE MIB e il 4,66% sul FTSE All Share. A Francoforte intanto riprende fiato Deutsche Bank. Questa sera in Consiglio dei Ministri i provvedimenti sulle banche, proprio sugli istituti di credito. Sui migranti, l'Europa contro l'Italia su norme rimpatri e sui ricollocamenti all'interno dell'Unione, scrive una lettera a tutti i paesi. Ci vuole un cambio di marcia, dice. Una villa e un intero sito archeologico sequestrati ad un alto prelato in manette questa mattina. Monsignor Benvenuti avrebbe truffato 300 anziani per 30 milioni di euro, stava per partire per le Canarie. Unioni civili finalmente in aula al Senato. Si parte questo pomeriggio con la richiesta di una parte del centrodestra di far tornare il testo in commissione. E infine Sanremo con un boom di ascolti, metà dei telespettatori italiani, come vi abbiamo raccontato poco fa, davanti al festival. Rita Dalla Chiesa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Conduttrice, giornalista e adesso, secondo l'idea di Giorgia Meloni, possibile candidata del centrodestra al Campidoglio. Lei che ne dice? Beh, grazie alla Meloni per aver pensato a me. Poi ho letto anche i giornali stamattina e devo dire... Ringrazio tutti per la stima, io però non ho deciso, non credo di essere all'altezza, sono una persona assolutamente normale, con la politica non ho mai avuto molto a che fare, poi uno può fare politica tutti i giorni, anche dalla televisione, perché magari esprime delle idee, va in una direzione anziché in un'altra, ma io... Non lo so, posso dire che sono nel panico, me lo permettete? Me lo concedete? Assolutamente. Ecco. È anche comprensibile, ma dicono che già oggi lei incontrerà Berlusconi? Dovrei vedere sì, il presidente Berlusconi oggi, sì. Già questo pomeriggio. Lo sa che nel frattempo questa cosa ha creato un po' di confusione all'interno del centrodestra, no? Perché oggi si sarebbe dovuto svolgere anche il vertice, appunto, con Salvini, sì. Anche con la Meloni, e Salvini ha detto no, non vado, dice, non è affatto filtrare, dice, non è un problema di nome, è un problema di metodo. Lei come si trova con Salvini? Le piace o no? Ma guardi, io devo dire la verità, mi sono trovata in 2-3 trasmissioni con lui, a parlare con lui, è una persona sicuramente, a me piace Salvini, non è una persona che non piaccia, ma questo è un altro discorso, io capisco tutti, nel senso che se lui ha deciso di non, io non sono nessuno per dire se sta facendo bene o se sta facendo male, posso capire che ci siano delle persone che non siano d'accordo, lo ringrazio per aver precisato che non è per il problema del nome. Sì. Il metodo io non so quale sia, perché ripeto, non facendo Ma mi scusi, parte... mi fa capire una cosa, ma la Meloni non l'ha nemmeno chiamata? No, guardi, tutto è nato veramente per caso, perché con la Meloni ero andata a prendere un caffè da Giolitti e poi lì lei me l'ha chiesto. Io sono rimasta, devo dire, piacevolmente colpita dal suo affetto, dalla sua stima, dalla insistenza con la quale me l'ha chiesto, però le ho anche detto, guarda, io francamente non credo di essere pronta perché è una cosa seria, ma qui non si tratta solo di politica, qui si tratta di prendere in mano le redini di una città che ha raggiunto un degrado totale, assoluto, e io sono veramente un microbo rispetto a tutto il resto. Penso che debbano esserci dei tecnici con, mi si permetta il termine, con delle palle quadrate, ecco, per cercare di tirare sul tutto. Io posso parlare da cittadina. Certo. Senta la Chiesa, però da come ce la sta mettendo? Ci sembra di capire che se anche si trovasse un accordo all'interno del centrodestra, se anche Salvini, Meloni, Berlusconi convergessero sul suo nome, non è per nulla detto e lei accetti, anzi mi sembra più propendere per il no, perché è un compito improbo, no? Mi sembra ci stia dicendo. È un compito molto, molto arduo, io sono una persona che non si sopravvaluta, quindi conosco i miei limiti e penso di, mi fa piacere tutta questa stima che c'è nei miei confronti, mi dispiacerebbe intaccarla, ecco, magari con qualcosa che gli altri possono anche non riconoscermi. Mi sembra propendere per un rifiuto. Non lo so, vediamo, però non posso escludere nulla, ma per ora è così, sto pensando, sono entrata nel panico 3 giorni fa, continuo a essere. Continua a essere nel panico. Sì, però questo denota anche, secondo me, se qualcun altro me lo dicesse, denota anche un po' di responsabilità, di senso civile, di senso di responsabilità, ecco. Allora. Nei confronti di una città che, ripeto, è una città che dovrebbe essere rispettata di più. dai politici e dai romani stessi. La ringrazio, grazie Rita, grazie Dalla Chiesa, le auguro una buona giornata, vedremo come evolverà questa vicenda, magari la risentiremo. Torniamo ad occuparci di mercati, adesso lo facciamo con Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, vogliamo concentrarci in questa giornata ampiamente positiva per le borse, più 4,61% il FTSE MIB, più 4,36% il FTSE All Share. Come al solito tra poco vi aggiorneremo con i colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, più nel dettaglio vogliamo concentrarci con te su due o tre temi, a partire dalla vicenda di Deutsche Bank, che per un paio di giorni ha effettivamente scatenato un po' di panico sui mercati, non solamente il nostro evidentemente, ma anche quello tedesco. Che cosa è successo? Ce lo spieghi? Sì, Deutsche Bank, come dicevi, è una delle banche più grandi non solo in Germania ma anche in Europa, al mondo, e ha una caratteristica, cioè quella di essere molto, molto finanziarizzata, diciamo così, molto esposta su tutte le forme di prodotti finanziari. Ebbene, per qualche giorno è iniziato a circolare il sospetto che addirittura la banca non fosse in grado di pagare le rate delle obbligazioni che appunto prevedono lo stacco della cedola di qui alle prossime settimane. Un allarme pesantissimo, perché non solo per l'ammontare appunto degli attivi finanziari che ha la banca, ma perché evidentemente è iniziato a circolare il sospetto che ci fosse qualche scricchiolio sinistro. In più, un indicatore che in questi casi è molto significativo è quello dei CDS, cioè di fatto le assicurazioni contro il default di ogni singolo titolo, sono schizzati ai massimi dal 2011. Il mercato si è preoccupato, il mercato sa che la banca appunto ha molta finanza in pancia e molta finanza anche malata, che costa miliardi di cause peraltro ogni anno, e quindi ha iniziato a dubitare. Sono servite note ufficiali che in teoria servono a rassicurare i mercati, ma in parte anche li preoccupano, perché se devi ricorrere a una nota, evidentemente, come dire, la preoccupazione è fondata. Oggi anche Deutsche Bank, come tutte le banche europee e anche quelle italiane, beneficia del rimbalzo, ma un po' di preoccupazioni resta. Sì, e poi c'è questa indiscrezione sulla possibilità di un buyback, di un riacquisto di obbligazioni piuttosto consistente, che è circolata oggi, no? Pubblicata dal Financial Times, sbaglio. Esatto, e qui sì, anche questo ha contribuito. E sarebbe un'altra misura, come dire, per arginare il tema delle obbligazioni. Buyback cosa vuol dire? Vuol dire che riacquisto le obbligazioni, da un lato una buona notizia perché tolgo dal mercato, diciamo, prodotti magari che possono essere considerati a rischio, ma dall'altro una cattiva notizia perché se li riacquisto evidentemente pago di più del valore e quindi ci perdo. Certo. Ti chiederei brevemente di andare ad altri due punti. In primis i decreti che dovrebbero arrivare questa sera, che riguardano il sistema bancario. Che cosa si dovrebbe prevedere fondamentalmente? Dovrebbero essere approvati dal Consiglio dei Ministri questa sera. Si deve prevedere più o meno di tutto. Si va dalle sofferenze che da settimane sono l'incubo delle banche italiane, e per cui nel decreto dovremmo trovare sia le norme che disciplinano le famose garanzie pubbliche per le cartolarizzazioni, che hanno avuto proprio tra l'altro oggi l'ultimo definitivo via libera dalla Commissione europea, sia nuove misure per accelerare il recupero dei crediti, che è un tema fondamentale perché evidentemente il credito è malato, è garantito, ma se io fatico a recuperare il bene che ha garanzia, spesso sono immobili, il valore si deprezza. Le norme dovrebbero servire, sì, appunto ad agevolare il recupero. Poi la riforma del credito cooperativo, importantissimo, le norme per gli indennizzi degli obbligazionisti delle quattro banche salvate a novembre, che si sono viste appunto cancellate le obbligazioni, e novità dell'ultima ora, sembra che ci possa entrare anche un incentivo fiscale per le banche, un incentivo fiscale per i prepensionamenti delle banche che si fonderanno. Che è un altro punto importante, esatto, per favorire l'integrazione. L'ultimo punto sul quale ti voglio, ieri una notizia che abbiamo solamente accennato: l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha inviato una lettera al presidente della Consob Vegas sul tema della semplificazione dei prospetti informativi, che è una battaglia che Il Sole 24 Ore sta combattendo, come dire, non da oggi, da settimane, e l'ABI in qualche modo ha anche risposto a noi, se vogliamo, al nostro gruppo editoriale. Sì, esatto. C'è una crisi di fiducia che spesso è dettata anche dalla mancanza di informazioni o da informazioni poco digeribili per un pubblico che è quello dei risparmiatori, non sempre evidentemente preparato. Il Sole settimane fa ha lanciato questa proposta di prospetti molto brevi, delle schede molto semplificate che facciano capire in una pagina, due pagine, quali sono le caratteristiche dei singoli prodotti ed evidentemente i rischi. Ieri l'ABI ha scritto a Consob proponendo appunto, facendo propria questa proposta. Consob ha accettato, se ne parlerà si è appreso al comitato esecutivo dell'ABI della settimana prossima, quindi evidentemente le cose, come dire, la macchina si è messa in moto e le cose, qualche fatto concreto potremmo vederlo. Si stanno accelerando. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, al quale evidentemente auguro buon lavoro. Ci ritroviamo tra un attimo per i mercati nella seconda parte della trasmissione. Torneremo a parlare di questa vicenda di cronaca, di quest'alto prelato arrestato per stamattina per una maxi truffa a 300 anziani per 30 milioni di euro, e questi sequestri, una villa del 400, un intero sito archeologico. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I titoli, le borse provano a reagire e anzi stanno reagendo. Più 4,9% il FTSE MIB in questo momento, ne parliamo tra un attimo. Sui migranti, l'Europa contro l'Italia su norme e rimpatri, e sui ricollocamenti all'interno dell'Unione scrive una lettera, ci vuole un cambio di marcia. Una villa e un intero sito archeologico sequestrati ad un alto prelato in manette stamattina, avrebbe truffato 300 anziani. Nel centrodestra si apre lo scontro sulle candidature, Salvini irritato dall'ipotesi, più che dall'ipotesi appunto dal metodo, per il nome di Rita Dalla Chiesa, la quale, come avete sentito pochi istanti fa, ci ha detto «sono nel panico». A Sanremo un boom di ascolti, metà dei telespettatori italiani davanti al festival. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nel frattempo è in corso la conferenza stampa congiunta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e del Primo Ministro iracheno Haider al-Abadi. La notizia più importante da questo punto di vista ve l'ho data poco fa nella prima parte della trasmissione. È arrivata ufficialmente la conferma nel corso di questa conferenza stampa che ci saranno sostanzialmente dei nostri soldati di supporto a protezione della diga di Mosul, per il mantenimento della quale è stata incaricata la ditta italiana Trevi. Istanti di pochi istanti fa, le dichiarazioni del primo ministro iracheno, appunto Haider al-Abadi, il quale dice vogliamo cacciare Daesh, ossia il califfato ISIS, entro la fine dell'anno. Noi veniamo adesso però a una vicenda di cronaca e che arriva da Bolzano, la vicenda di Monsignor Patrizio Benvenuti, che questa mattina è stato arrestato mentre stava per partire per le Canarie e avrebbe truffato 300 anziani per 30 milioni di euro. Siamo in diretta per parlare di tutto questo con Alan Conti, che è un collega giornalista, un cronista dell'Alto Adige. Buongiorno Alan e benvenuto. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, come si snoda questa vicenda? Raccontaci un po'. Sostanzialmente c'è stata questa truffa di calibro internazionale che è stata scoperta dal comando provinciale della Guardia Finanza di Bolzano, dell'Alto Adige, perché una ex suora che risiede qui in Alto Adige, Alto Atesina, e stava a Merano, ha scoperto di essere una collaboratrice di un trust, di un cartello, con una società, con questo monsignore a cui lei forniva dei servizi di assistenza quando lui lavorava a Roma. E su questa azienda aveva notato dei movimenti bancari che lei non si sapeva spiegare, quindi rivolta alla compagnia della Guardia di Finanza di Brunico, e da qui si è cominciato a ricostruire una rete di società. Cioè, in sostanza, spiegami Alan, è stata questa suora o ex suora è stata messa a prestanome di questa società senza saperlo. Esattamente, formalmente lei era amministratrice di un trust, quindi lei praticamente disponeva di immobili su cui poteva fare tutte le operazioni che voleva. Di fatto lei non faceva nulla, nel senso che tutte le operazioni, diciamo, concrete venivano affidate da Monsignor Patrizio Benvenuti a un suo faccendiere francese che si chiama Christian 27, che si occupava di questi investimenti immobiliari. È praticamente una sorta di propagine di una galassia di aziende che loro avevano costituito, che facevano tutte riferimento a una onlus che si chiama Kefa, ma serviva a spacchettare tutti gli investimenti che loro rastrellavano attraverso questi 300 truffati in varie aziende dedite soprattutto all'attività immobiliare. Fammi capire una cosa, sì. E poi veniamo ai sequestri di stamattina, perché devo dire sono abbastanza curiosi, perché c'è anche un sito archeologico. Però quello che vorrei capire è come avveniva la truffa, e cioè, io, se non ho letto male, una parte erano donazioni verso questa onlus, dall'altra parte c'era un vero e proprio schema Ponzi, ossia, no, che consiste nella sostanza, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, di farsi dare dei soldi promettendo che l'investimento renderà una certa cifra e pagare il rendimento con i soldi che arrivano dai successivi investitori, in sostanza. Ecco. Questi sono i due elementi, no? Signor Benvenuti fonda questa associazione, si chiama Kefa, nel 1990. Fino al 2007 si occupa sostanzialmente di opere anche di solidarietà, come la costruzione di scuole in paesi in difficoltà. Contestualmente cresce un ramo di investimento di questa fondazione legato al settore immobiliare. Nel 2010 loro offrono come investimento a gente che possiede dei risparmi questa fondazione, dicendo: io vi propongo l'immobiliare e noi, come, diciamo, utile morale, ci impegniamo anche in altre opere di solidarietà, ma ti proponiamo questo investimento con il 6-7% di interesse. Il sistema Ponzi prevede di pagare questi interessi i primi anni, loro lo fanno fino al 2014, poi di colpo smettono. E io, risparmiatore, che ho dato a te questo investimento, ho ricevuto una fiduciazione di garanzia. Sì. Nel momento in cui io vedo che gli interessi non mi vengono più pagati, vengo dal signor Benvenuti a chiedere la restituzione della garanzia, ma lui a quel punto si professa incapiente. Molti cominciano a capire che cosa è successo. Allora, dici infine dei sequestri. Ovviamente quello che vi stiamo ripetendo, quello che stiamo riferendo, sono le ipotesi della magistratura, che ovviamente dovranno passare, insomma, una serie di gradi di giudizio. Dici un po' dei sequestri. Sono stati fatti diversi sequestri di beni mobili e immobili. In totale sono stati sequestrati circa 15 milioni di euro su 30 calcolati sulla truffa. Tra i più curiosi, diciamo così, c'è il sito archeologico che riferivi tu in provincia di Trapani, che è un sito che vale 850.000 euro, che potenzialmente poteva essere utilizzato anche come forma di investimento immobiliare. E sicuramente l'immobile con più valore è una villa, si chiama Villa Vittoria a Piombino, in provincia di Livorno, costruita nel 1465, molto lussuosa, molto elegante anche, dove di fatto risiedeva Monsignor Benvenuti, che è una villa da 8 milioni di euro, affacciata sul mare, insomma, esclusiva. Più un altro molto corposo è un sequestro di 10 unità immobiliari tra case e negozi a La Spezia, intestate a una di queste società che insomma, con abilità da Mustelli, gli avevano aperto un po' ovunque, e più la villa in Corsica del faccendiere, più e molte altre case disseminate sul territorio in Lazio, Toscana. Niente male. Decisamente niente male. Allora, grazie ad Alan Conti, giornalista dell'Alto Adige, al quale auguriamo buon lavoro anche su questa vicenda. Noi andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero. Noi ci ritroviamo alla fine per i saluti.